parlatela. Ma io sono già sorellina, però. Sì, sì. Però che cazzo, io mi posso vedere tutta la notte di vivo qui, sempre a me sono qui. E in effetti, ci arrangiamo, si intende, già. Fuori, si intende. Ah, vai. Ehi, ti senti più forte, perché ne frega, però secondo me già è giusto, eh. Ascolta, guarda, vai in FM. Va bene, Roberta, 120 all'ora. marito lo vede, grazie tanto. E abbiamo visto su piazzata, e ciò di chi ci aveva con piazzata. Però bisogna stare molto attenti, Sì, ma io sul tetto ci passeggi da me. Il tetto dove si può passeggiare è a terrazza. Ma c'ha i muretti alti? Non ha i muretti alti, ma c'ha la casetta dell'ascensore. Allora vi siete tenuti lì. Proprio la cosa dell'ascensore l'ho messo. Dove c'è anche la antenna condominiale. Bene, sta uscendo Gianni. Già sto uscendo bene. Sto cadendo in 5 minuti. Se esce male, già te lo diciamo noi. Sta uscendo benissimo. Mi ho sentito ieri che alla terra gli ho chiesto 60 volte. Va bene, va. Non ve lo chiederò mai più. No, non è quello, Falche, là. Già esci bene, te lo metto. Se fossi uscito male, ti avrei detto qua che sto uscendo male, Falche. Te l'ho sempre detto, non quando esci male. Sto scherzando, chiama gara. Sto cercando di finire quel boccione, ma... Dimmi già in fiscia. E poco di draga, chi su? Hai a portare, ma tu? Quant'è? A quanto fai al litro? 27 chilometri. Mamma mia, quanto è amaro, quanto è amaro. Sui resta amaro. E là. Amaro è, come mai? Te ne avevo messo quasi 2 litri e non te ne sei accorto prima. No, negativo, lo sai cos'è già? Che mi sta legando la lingua. Adesso posso a fare l'altro che è più dolce, magari la lingua la fa smuovere. Ah, si svega, lui sì. Ma tu anche nei lingui dentro? Oh, negativo. Negativo, accetto. Lo dire anche basta, Beh, cazzo, dopo che ti metti i due litri, ti hanno più di basta. Se no ti puoi un capusato. Ma tu come ti dico, come hai sentito parlare ne ha? Ho capito. Di come ti dico, come hai sentito parlare ne ha? No, negativo. Nessuna malattia, grazie a Dio. Non è una malattia, no, è un coma fatto praticamente che ti viene quando bevi molto. No, ma io bevo per bere, lì. Io mangio per mangiare, esattamente. Bevo per bere e mangio per mangiare. Oh! E qua! Mamma mia, non me so! Che ci vuole allegria! Sì, ma siamo appena di lunedì! Domani deve andare alla bagaglia, lo sai! Allora, per quel lato lì non c'è problema! Alle 4:30 faccio la sveglia a Volcano e a Gippone! E poi sono a posto! Ma già ti già passa tutto così! Ma c'è il vino, conservati solo e comprati un bel baracchino. Via, arriverà anche quello. Rimuni. Da Rimuni, tanto da oggi, muori domani. Che teorie che c'ha. Io ognuno la pensa come vuole, capito? Quello è uno. A me non mi interessa di adogare niente perché quando tu li adoghi, noi adoghiamo gli appartamenti, adoghiamo i pavimenti, adoghiamo tutto. Vabbè, adesso adogo la domania. Ci sentiamo dopo, ciao. Ciao. Salisi, sì, ho anche te che sei a mangiare. Ciao Salino. Fondo, sono troppo, ma 80 metri non per nessuno, c'erano prima di percepire questo, io avevamo perché mi sono tutti. Va bene, salutiamo a loro. Natalia, a che ora mangi? Dimmi, tra un po'. Mangiamo qualcosa e ce ne andiamo a letto. Che domani lo dura, Sì, chiama. Vieni Natalia, dai. Se devi andare a mangiare e a riposare, dai. Se la ascoltiamo alle migliori, dai. Ciao, a domani, dai. Sì, ciao, Falco, già mi è andato se ne. E già mi andava a mangiare adesso. detto, vabbè, ok, no, proprio. Ma vado, mi mangio anche quello, Va bene, dai, forse riprendi, già siamo qua. Ciao, Natalia, buona carica, buon tutto, dai. Appagà. Pomponocci, sì, cambio. Attento, Antonio Pompolo. Arriva Torino. E diciamo che il giorno di notte c'è parecchio. Sennò come fai a accordare lo ballo? No, ci i soccoli manuali anche, capito? Questo ti dicevo, se ci sono, se è automatico. No, no, come giambo questo? Raga, non mi ero espresso bene io. Accordatore, volevo dire automatico. E vabbè, comunque gli è preso. Però lì è di vecchia era o... o nuovo? Ma di vecchia era, tu pensa, se adesso c'è la valvola mezzo andata, quella che sta funzionando, chi l'altro non funziona, non so neanche se ne l'ha messo, perché non l'ho aperto. Cosa ti volevo dire? Figurati se le metto tutte e due. Certo che ci vuole molto, basta premere il pulsante e funzionalmente quello lì. Per il consorzio è fatta, beh, tu allora. Tiene mano quella che c'è là. Praticava il testo, non mi ricordo se è fuori o dentro, ma gli ha disegnato. Si preme o si preme per farlo uscire, adesso non mi ricordo com'è. Comunque si preme questo pulsante, poi ci sono a fianco le manopole, girando le manopole, prima proprio con una e poi con l'altra, e ti regola le stazionarie. L'antenna poi, dopo c'è il resto. Tu hai messo l'antenna, sì. Bello comunque, dai. Già, le due batterie se ce ne vanno due in meno. O lo devi mettere a usare le batterie normali, se devi mettere le vetture, e poi mettere tutte le batterie. Raga, perché due in meno le caricabili? Digitali, e faccio certe fotografie per da spavento, ma belle, proprio fatte bene. Sai cosa aveva? Il difetto che dopo tre scatti scaricava le batterie. Io entro un attimino alla capitation, lo prendete voi, dai, vai la tariffa. Sì, calma, calma, va. Tali, la macchinetta è la cosa che devi pigliare. Sì, è una giubilata di cosa, eh. Adesso vediamo quanto ritiro, prima. Ma di tamanca mi ritiro giocamente. Io già lo so. Oh, Antonio! Insieme vengono. Tu lo controlla se avete qualche capsula da dare a me, avetevi col microfono. Quale? Mi sono fatto la mano. Sì. Adesso vediamo di metterne una come si deve. Sai cosa è fatto già? Che in quegli apparecchi così. Il casino che è quello, la microfonina, molte volte la vecchia la prima, molte volte non era prima non che la vecchia. Sì, sì, adesso vediamo di mettere qualcosa, di adattare una scatola, perché comunque si sente, però oggi c'è tantino, ma ce la troviamo, voglia. E ne ho qualcuno anche io, al limite che la proviamo. Ve lo lascio il microfono e guardate come se ci sta bene qualcuno. Sì. Non c'è problema. Adesso le vediamo un po'. Trova una scatola adatta. Ti faccio anche la voce un po' più grossa. Se no le raccavo da quello del coso, solo che mi dispiace. Toglierà da quella del garage, è già pronta. Oh, non ti credi che sia bene. Che cosa? Quella del garage? Con quell'apparecchio, non ti credere che potrebbe uscire benissimo come potrebbe uscire non bene. E purtroppo quegli apparecchi sono un po' particolari. Magari va molto bene il garage, ma non va molto bene. È un casino, può essere che farà benissimo, hai capito? Già è vero, quello c'è una specie di compressorino interno, boh, neanche per quello che pompa. Chiaro. Hai detto che va la prima, gara si ribone, il microfono gara si ribone, si è fatto, non ti credo. Che quell'apparato lì l'ho provato tante volte e mi ha detto che ci può bene. Ma adesso c'ho questa radio così, non capisco il fatto. Io posso anche capire che sia vero, per carità, ma non capisco perché non me l'hanno detto da prima. Già, in effetti è un asino. Guarda, se ce ne rifo una è per farti contento, hai capito? In effetti è un po' un asino, però si può risolvere tranquillamente, no? Non ci stanno problemi. Gianni. Ma sto uscendo il radio? Sto uscendo bene. No, perché adesso cambio la capsula. A vedere, ci ho trovato una capsula di quelle piccole stesse. Lasciala per il mio microfono che sto scendo male. E cosa? La capsula, anche quella grossa, dammi, quella grossa che faccio schiatta un po' di gente. E ognuno di quelle grosse? Quella che stai usando adesso, di che cosa è sul MV5? Quando mi conosci l'originale. L'originale? Questa qui sì. E questa qua fa la voce grossa, voi? No, quest'altra che è in mano, a vedere come esce. Prova, io, prova, vediamo un po'. Di saldo, vediamo un po'. Yeah, tanto riprendi il falchino. Cava cava, capa e poi capa. Antonio, mi ascolti? Va bene, dai, ragazzoni, voglia di stracco. A posto, Sì, a posto, sì. Gatta, sì, a posto, di me non si dà gatta, dai. Beh, vai, fate una bella drumita, faccia di calurru. No, perché sono stanco, dai. Saluto a tutti, dai, saluto a te, Gianni, dai, saluto a Pierpaolo, ad Altarino, a Antonio, a tutte quante, dai, tutte alle prossime. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte, buonanotte, ci sentiamo, Falchetto, avanti, Antoine. Buonanotte, Falchetto, dai, ci sentiamo domani. Pierino, a Pierino è andato, è col vasino. Gappa. No, perché mi sono ricordato che ho detto che stava andando nel comodo. No, già qua un po'. Mi deve dare il tempo perché io lo appoggio, non lo tengo in mano. E vabbè. No, io invece ce l'ho sempre in mano. Che se no poi se l'appoggio mi gaggi. È un casino. Va bene, va bene. Vediamo un po' Natalino se ha cambiato la capsula. Aspetta un attimo, la camera di salita, c'è la piscina. Era il tempo delle more. Non mi sento male, perché sono al condensatore, ma non sono bene per la perfettata. Vabbè. Pazienza, pazienza. Ok, dai, QRT da parte mia, dai, salutoni, tutte le prossime idee. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Dai, chi mi si fa che ciao ciao? Ciao, perfetto, buonanotte. Buonanotte a Pierpaolo, buonanotte a Antonio, buonanotte a Natalino, buonanotte a Gianni, ciao ciao. E ciao ciao. Tu non hai per fare di quelle capsule, di quelle buone. Qualcuno ti ha trovato. Anche se non è paracosa. Beh. Ma non sei bandosa te con quella che ho. Sì, ma tu, a me mi deve dire una cosa. L'altra volta ti ho deciso e non eri così. Chi sono io, ma te si mi capono le tratte della favore. Certo che è quello. È italiano. E com'è possibile? So per farlo. Non lo so, so. Anche io non me lo spiego, perché prima all'inizio invece non mi aveva mai detto niente, e lo stesso microfono, quello col cavo, e l'abbiamo cambiato, c'è il cavo lungo, eccetera, eccetera, non è che... ma mi avete fatto provare sia il Milan che quello lì, e mi metto, con questo qui va benissimo, lascia stare questo perché va benissimo, e io ho lasciato quello, adesso l'ho acceso, vedi la voce barattolosa, questo e quell'altro, nasino. L'ha cambiato il capo? Cambiato Savilio. A me non mi pare, ma adesso il microfono è dell'altra volta. settimana nessuno l'apparato mi... non l'ho dato a nessuno l'apparato, l'apparato ce l'ho sempre io. Io non sto dicendo che hai la tua parte in mano qualcuno, io ti sto dicendo che ti abbia scambiato il microfono. C'era prima e quello lì, è lo stesso, non ho scambiato con nessuno, nessuno mi ha chiesto di provarlo, di scambiarlo, niente. Però una volta non era così. Beh, questo penso. No, non l'ho prestato a nessuno, no. Pagata. Non l'ho prestata a nessuno. Aspetta un attimo, rispondi al telefono. Antonio. Antonio, voglio capire se è la batteria scarica che... stato niente. Io non so cosa dite, non te lo dico solo io, ma io ti sento anche, ti ho sentito anche stasera che trasmettevi in un altro canale con altre persone, mi pare qualcuno ti abbia detto la stessa cosa, io non so perché ti ascolto, quindi si è comprato un barchino nuovo, è tutto originale, deve funzionare tutto originale, ti ascolto male, male, male, male, tutto bracchiante, tutto mezzo sattolo, come dice Roberto, sembra appunto un problema di batteria, sembra un problema di qualcosa che non sta andando bene, di disaccordo soprattutto, secondo il mio punto di vista, qualche disaccordo c'è sicuramente lì, tra antenna, baracchino, non lo so come ti sei organizzato, non lo so, io ti posso dire che ultimamente ti ascoltavo benissimo, benissimo, benissimo, un po' portatile con quello che andavi prima, ti ascoltavo molto meglio di adesso, anche come radio. Ok, vai Roberto. Allora, dimmi una cosa, ma questo è un apparato nuovo, mi sta dicendo, nuovo usato, come ha detto Claudio, e poi che alimentatore sta utilizzando? Non è che c'è problemi di alimentazione, no? Tu, perché il segnale è più basso di quello che ti ascoltavo col portatile, sei 9,25 col portatile di 9,30, per cui qualcosina che non sta andando c'è sicuramente, non che non c'è dei rientri di radiofrequenza, non lo so questo, non credo, se le antenne sono uguali, c'è la stessa antenna, è più probabile che c'hai o problemi di alimentazione o qualcosa di sul coso microfonico, non lo so io, dimmi un po' qualcosa. Non ho portato niente, come l'ho comprato è dalla casa, adesso non so se è problema di alimentazione, scusate, o cosa sia, non lo so, vabbè. Dimmi tu. Sei molto più basso, hai perso quasi 10 punti di coso, di segnale. Io, cioè ti tiro fuori, però la radio, come ha detto Claudio, va male, molto male, perché sembra che sembri mezzo pernacchia, cioè stai parlando a tratti. Completamente, cioè, se non avessi guardato il segnale, sembravi che fossi amplificato con qualche finale o cosa del genere, che era in disaccordo, come ha detto Claudio. Però il segnale è diminuito, per cui sicuramente non c'è niente attaccato, però la modulazione è brutta, brutta, brutta. Vediamo a Joker, anche Joker nell'ultimo passaggio l'ha peggiorato anche lui. Avanti Daniele, ma sei sempre quello di Monteoro, se dico bene, così è Daniele. Passo sempre io. Passo. Non ci posso fare niente, purtroppo è questo puntino, intanto l'antenna sicuramente sta completamente girata, perché fuori all'inizio in serie, è stata messa così un po' fosticcia. C'è molto quel semplice, la tua è 9,10, poi scende a 9, però c'è qualcosa che non lo fa anche da te che non sta andando bene, sicuramente, perché il segnale è buono, però la modulazione è altalenante, dai, c'hai tipo scariche, cosa del genere. Avanti Franco, e chiediamo conferma anche a lui. Confermo anche la radio di Falchetto, che è molto brutta con la radio Falchetto comunque. Secondo me o c'è poca alimentazione con l'apparecchio, o non ce la fa l'alimentatore. Quanti apparecchio è? Questo lo sto utilizzando. Kappa. Quindi che cosa è? 150 della Intec, ma ne taglio altamente le mani. È un 550 l'Intec, così è Falchetto. Negativo, questo è un Intec MB40. Intec MB40, cos'è? Roba di piazzetta, cos'è? Non lo so cos'è. Non lo conosco questo MB40, tu lo conosci o... vabbè. Il mobile come è tra, ce l'ho io preciso identico. Quindi è un apparato usato, non è nuovo. Addirittura il Mobicon, adesso è così. Ma guarda, io l'ho avuto il Mobicon. È una signora radio, una grande radio. È una grande radio. Non so dove sei riuscito a tirarla fuori, ma c'è sicuramente qualcosa che non va. Ma l'hai comprata nuova? È impossibile, perché non la fanno più danni con la radio, quindi l'hai comprata usata. E il Caffaroccio, un regalo, vai. Ah, quello che stavi dicendo. Vabbè, ma non si sa, forse perché era troppo ferma, non lo so, tanto, però la radio tende a calare, tende a sparire, non so neanche io come, guarda, con tutta la mia esperienza, no. Non so quale problema può avere con la radio, non lo so. Comunque va, io ti ascolto, se avrò il volume abbasserò quando parla Franco, perché mi sta uccidendo la testa, e quindi comunque non ti preoccupare, io un po' mi metto a posto, ma ti do un consiglio, mettere le mani competenti, cioè se qualcuno veramente che migliorare per giovi. Querete perché la mia signora mi sta chiamando, anzi veramente mi ha minacciato che se non vedevo subito di Cudia. E niente, volevo chiedere soltanto una cosa a Roberto. Roberto, il camper lo stai usando oppure no? L'ho usato quest'estate in cui sono andato qualche giorno e poi l'ultima volta l'ho usato a settembre. E poi adesso è fermo da quell'epoca, diciamo, qualche mese. Purtroppo non ho avuto il tempo di utilizzarlo. Prevedo comunque quando c'è qualche bella giornata, qualche fine settimana, se va tutto bene di metterci in mano. Infatti di lì volevo provare in questo Mobicom che c'ho io e installarlo lì. Tu invece stai andando? Ma io qualche cosa lo sto usando così, adesso me lo sto mettendo in vendita perché me ne voglio comprare uno leggermente più grosso. Non interessa nessuno un camper? No, la maschera a bagno ce l'hai? No, la maschera a bagno non ce l'ho, non esageriamo. Io ho visto uno con la maschera a bagno, che la maschera a bagno era una cosa per tre persone con idromassaggio, però costava 160.000 euro. Vabbè, a me serve una maschera a bagno. No, mi piacerebbe avere il camper, mi piacerebbe avere una cosa che mi è sempre piaciuta, anche se anch'io poi farei come Roberto, lo userei solo in quelle epoche, in quel poco tempo insomma che si può utilizzare, e soprattutto il periodo estivo, poi è una cosa un po' così, il camper è, per me è come un otto, guarda, utilizzare solo a tempo bello. Se sento qualcosa avvisa Roberto e ti faccio sapere, so che è sempre una cosa vendibile al 100%, quindi non è un problema. Ma guarda, il mio è un Ford, è un Elnag montato su Ford Transit 2005 diesel, lo sto dando 11.000 trattabili. Se penso con tutti i soldi che ci ho messo sopra, dico, lo sai quanto ci sto perdendo? Vabbè, ma è sempre così, guarda, è sempre così. Io ho comprato una macchina 2 anni fa, 3 anni fa diciamo, perché era di andare, io ho pagato 26.000 euro e poi Roberto Giussari, di cui sto parlando, poi l'ho praticamente regalata perché non riuscivo a venderla più. L'ho data a meno della metà, quindi purtroppo è così. Sapevo di tutto quello che ci avevo fatto e di tutto quello che c'era, perché avevo messo anche l'avviatore, avevo messo un sacco di cosettine in linea, però alla fine i mezzi di trasporto sono così. Io in poche parole, io ce l'ho già 2 anni e mezzo, gli ho messo il frigorifero nuovo con ghiacciaia grande, gli ho messo il pannello solare, gli ho messo perché mi sono accorto che c'era una perdita nel radiatore nuovo, gli ho cambiato il galleggiante del carburante, gli ho messo mano all'impianto elettrico e poi cosa abbiamo? Guarda, io ho fatto tanti di quei lavori di destra a sinistra che se vado a pensare quanto ci ho speso e lo sto dando 11.000 trattabili. Un prezzo, vero un po', se sento qualcosa lo dico a Roberto e poi ti farà sapere lui. Ok, vai a cenare, se non ti cuido moglie, dai, se vuoi entrare ci sentiamo dopo, siamo qua, faccio girare la ruota, vai Franco. Interessante il camper, a me mi servirebbe lui per andare a pescare quel camper lì. E guarda che lascia perdere che un bedicente lo dica, si sta facendo un mucino gonfiato e la faccia, oppure si mette direttamente sopra. Vabbè, se qualcuno vuole informazioni sul camper, non so se conoscete Marco Cerra, da lui ce l'ho messo nella bacchecca i dati e delle fotografie del camper. Signori, vi saluto, eventualmente ci sentiamo più tardi. Buona serata a tutti. Ciao ciao, vai Roberto. Aspetta sapere, mi sembra che era come il mio, lei è la Flipper, così è il tuo. Cara. Appa. Ti lascia andare, se no ti picchi a forza, è tua moglie, dai. Avanti Claudio per Daniele. Ciao Joker, ce la riascolta le prossime. Fatti vedere e sentire, ciao. Ah, ciao ciao. Comunque ha detto, se veramente non interessa qualcuno, perché io che lo conosco solo qua di frequenza, di persona, non credo di conoscerlo, e la Marco Serra quello delle moto, se lo conoscete non ce la sbagliamo. E io meglio faremo sapere, non c'è problema. Ma che mi stava dicendo Claudio? Ci stavo spaccando le orecchie. Rispetto a Falchetto mi stai facendo soldo, sono sempre a cuffia, non la sto usando più, non la sto usando più, però sì, è una radio fortissima. Vediamo un po' Falchetto se riusciamo a sentirlo di nuovo, e se saluti per venire giù, per ci siamo arrivati avanti, perfetto. Perfetto. Come dicevate, per Franchetto perché c'è tanto entusiasmo, voglia di fare, di avere una stazione recente, cavolo, anche se l'hanno regalato, vabbè, non si può dire niente, ma è una fesseria al baracchino. Perché quel pubblico non è un granché, ce l'ho io, però già funziona discretamente, c'ha tutto, c'è anche il frequenzimetro, per cui gli ha un apparecchio che va più che bene rispetto a quello che utilizzava prima, però strano che abbiamo questo problema. Avanti perché non c'era, riprendi qua. La radio è una cosa seria, quando non va è un problema. Ma io ho un veicolare che se tu devi sentire, non so se hai sentito. Claudio l'ha sentito, come va Claudio con il veicolare? Benissimo, molto molto bene, non ci sono problemi. Ottimo. Sì, va bene, vabbè, però è una cosa che hai regalato, va bene. Riesce un po' a mettere tutto a posto, a vedere se ci sta pasticciando qualche facendo, perché mi sembra strano, io l'ho avuto, anzi ce l'aveva Luca, era una schiaffetta a quel momento, poi l'ho avuto anche io, e ti posso dire che è un buon baracchino, l'avevo messo in macchina, va bene, cifra, e cosa devi fare, va bene, avrai tu. Della LAN 48 perché prende meno cuti, però come trasmissione è meglio la LAN 48. Io ce l'ho tutti e due, li ho confrontati tutti e due, li ho portati tutti e due al mare per vedere addirittura quello immobile come tira qualche watt in più della LAN 48. Quando mi avete sentito, però ha perso il cubo, ho fatto la LAN 48. Sì, no, quello che c'ho io c'ho 68 e ti posso garantire che c'ho una radio bellissima. Sto dicendo che il Mobicon come modulazione è inferiore a coso, all'Alan 48, a parità di microfono, perché io l'ho portato tutti e due giù due anni fa per tenerli così quando avevo voluto accendere, ne avevo fatto delle prove, l'ho messo prima uno con lo stesso microfono e poi l'altro con l'avete detto a tutti quanti, no, è meglio l'Alan 48 10 una volta. Ma io ce l'ho avuto il Mobicon, io posso garantire, se mi avevo lasciato un M300 funzionava la grande. Più squillante, cioè con la 48 è più forte la modulazione, è un po' più presente, dai. Anche quello va bene, io li ho provati tutti e due con le meno 93, anche col tanne più 3, no, anzi no, tanne più 3 no, le MB più 4 forse li avevo messo nel mobile, come con l'adattatore, perché tanne più 3 non ce l'avevo l'adattatore, siccome ha 6 poli, a quanti ne ha 5, 6, 2, 4, 6, cioè con essere a 6 punte. E vabbè, tanto non trovo sempre 4, perché sono due di ricezione e due di trasmissione. Sì, ma c'è anche la put down, puoi metterle. E vabbè, se ci metti la meno più 4 non lo puoi più mettere, però. Sì, vabbè, però naturalmente. Ma poi la messa che chiude la put down. Io ce l'ho anche qua nel capo, perché non è mai trattato. Ah, io non ne uso mai, non me la fate nulla. Guarda, l'altro giorno stavo usando il capo, a molte funzioni neanche l'uso. Cioè, hai fatto la funzione della tastiera, non so se l'hai mai usata, che ti scrivi la frequenza direttamente, però non l'avevo mai fatta la prova. Scrivi enter sul coso, sul tasto metti qualcosa, poi metti enter e poi ti scrivi la frequenza, quello anziché andare a ricercare manuale. Sì, ma ce l'ho avuto, vabbè, io ho avuto quello, ho avuto 440, 450, 140, li ho avuti tutti più o meno di quella serie lì, capito? E se l'ho fatta pure. Nonostante il precisore ti consuma più c'è 10 metri da 140, non cambia neanche una virgola. Ma c'è qualche cosa in più, c'è il preamplificatore d'antenna questo qua. Ah, così. Lui perso c'è più canali, c'è più frequenze, tutto qua. Sì, è uguale, è un farino preciso, uguale identico. Il 140, ti dico il difetto del 140 secondo me, perché io l'ho avuto a confronto, l'ho tenuto a provare eccetera eccetera, perché prima di prendere il 440 me ne hanno fatto vedere uno, un amico me l'ha lasciato, e li ho messi tutti e due vicino col commutatore attaccato insieme proprio per vedere tutti i confronti. Allora il 440 è una B visto come si è entusiasmato. Il centrofante è proprio rumoroso, primo difetto. Ricezione superiore al 440 alla grande. Secondo difetto, regolazione della potenza, quella è una grande cagata. Troppo sensibile sotto più millesimo e ti tira troppo la potenza. Quarto difetto, il cambio canali, c'ha una memoria di 30 canali e basta. Quello secondo me può essere un difetto, perché se memori di 40 canali della Mazda cittadina ti devi spostare in un altro sistema. E poi, altre cose, vabbè, non sono importanti. Avanti, nuovo Fra. Sì, quello sì. Sì, il 440 rimane più bellino anche come parecchio, come tutto, c'è più cosa, diciamo, rispetto al 140. C'è la possibilità di memorizzare i canali da 1 a 40, cosa che con il 140 non puoi fare, che memorizzi da 1 a 7 e basta. E poi i filtri, quella roba lì. Secondo solo, lo riprendo io. Eccomi qua. Ma state parlando di due cose completamente diverse. Il 140 è due conversioni, il 440 è tre conversioni. Quindi è totalmente una cosa completamente diversa. Non so cosa voi volete dire, sia come ricevitore che come trasmettitore. Mentre i trasmettitori sono uguali, perché ci si identici montano lo stesso finale, sia di ricezione che di trasmissione. Però è la parte del ricevitore che cambia. Non puoi fare le comparazioni con un ricevitore 440 e un ricevitore 140, sono completamente diversi. Una due conversioni, l'altra tre conversioni. Il 440 è tutto da lì. Quindi cambia le bande tutto da lì. Il 140 solo da 10 a 40 metri lo scatto del relay, quindi la prima conversione. La seconda conversione ce l'ha dai 40 agli 80, basta. Invece il 440, se tu stai attento, cambia, senti tic tic, quando tu vai per esempio a 14.000 e poi vai a 14.510, già a 14.500 scatta il primo relay della prima conversione. Hai capito? Quindi è un altro tipo di ricevitore, mentre il C80 è ancora superiore al 140, perché? Perché c'è la scheda di 6 metri, quindi non tre conversioni. Sì, no, infatti sto dicendo quello lì, mettendomi a confronto, uno lo paghi per dire di media intorno ai 350 euro, l'altro lo paghi dai 400 a 450 euro, per cui io dico, spendi 120, però c'è un apparecchio completamente di ricezione molto, molto superiore, lo stai confermando anche tu, poi ciao, vabbè, tu mi dirai non te ne fai nulla, l'appoggiatore non te ne fai niente, qualcuno può essere utile, c'ha altre fesserie, dei filtri che magari 140, 140, io mi sono accorto che quando tu attacchi uno e attacchi l'altro c'è un abisso di rumore, cioè di rumore di fondo, cioè un'altra generazione di apparati. Poi per 100 euro secondo me conviene spendere, poi 100 euro sono ben spesi. Guarda, Franco gli ha fatto avere una cosa che lui, secondo lui era impossibile, la differenza tra il 430 e il 440 che Franco ha notato subito. Il 430 è ancora più silenzioso e ha un ricevitore superiore ancora al 440. Perché? Perché tre conversioni come il 440, però è di generazione quella di vecchio stampo, che curavano molto, molto di più rispetto ad adesso. Infatti tutta la parte dei relay sono tutti a commutazione elettronica, mentre questi che ci sono adesso nel 440 sono a commutazione manuale. Cosa a proposito di relè, il 140 quando passi di banda ti commuta automaticamente come il 440 in LSB? Sì, conferma, no, sì, se ti sposti che è memorizzato sì, però vedi, il 140 rispetto al 440 tu proprio fai, hai detto una cosa giusta e sacra, devi usare il doppio workflow per poterti spostare nelle frequenze. Il workflow semplice, io lo chiamo, in quello che è il manuale del workflow, ok? Il 140, il C80, il 430 non è come il 440, il C80 e il 140, se tu guardi, se tu ricordi, hanno il doppio workflow, ok? Il workflow dei canali, praticamente una volta che sei in memoria, usi il workflow dei canali, quello piccolo, lasciando il workflow sempre libero, praticamente cosa fai? Come fa usi quel vuoto piccolo quando devi usare i 30 canali che tu hai in memoria, mentre in vuoto A, in vuoto B lasci il vuoto del service libero, quindi puoi andare dove vuoi, capito? Puoi andare dove vuoi. Nel 440, di fronte al 440, se tu ti vuoi spostare, come ti sposti con 140, se sei in memoria, se tu hai le memorie fatte, segnate, per esempio dal canale 1 al canale 40, e devi spostarti, devi uscire dalle memorie e andare col vuoto service, giusto? Sì, diciamo può essere un vantaggio per certi versi, io preferisco così comunque, metto il VFO e vado in manuale per vedere se vuole andare in continua. C'ho tutti memorizzati sino a 45 canali, me li sono messi, ma ne potrei metterne sino a 100, cioè 99, anzi con lo 0 ne hai 100 di canali, perché fa da 0 a 99, lo 0 è un canale, per cui c'hai 100 canali memorizzabili. Io preferisco quelli, forse come comunità con la 140, quello che stai dicendo tutti, quello l'MCH, c'ha lo scattino, ti fa lo scattino, tipo una macchina fa tac tac tac e giri più semplicemente, perché se lo giri troppo velocemente magari se c'hai la cosa diciamo del potenziamento del cambio canali, del cursore del cambio canali che voglio dire, è troppo veloce magari devi salti 3-4 canali di colpo, solo per quello lì magari può essere un difetto del 440. Ma non è neanche un difetto, Roberto, anzi è una cosa che va bene, una cosa che va bene, non è un difetto vero e proprio, è fatto proprio così per le conversioni. Aspetta che abbasso, ecco qua, è proprio fatto così per far sì che abbassi la, cioè sia stabile nel convertire proprio la banda, ecco perché entra conversione tutto lì. Ma quello che c'ha Franco è molto molto spinto, è simile a quello che hai tu, apre moltissimo, soprattutto in banda, in AM monta, vabbè quello monta il finale a MOSFET del 950, con un lavoro fatto molto molto serio, molto bello, che mi ha fatto Carlo di Chiaramonti, un grande radioamatore, per queste radio le smonta, le fa e non c'è problema. Avanti Franco. Sì, in definitiva è così. Quanto sto arrivando adesso a te, Robè? 9.35, sì. Io sono pilotando esattamente con 20 watt modulati, No, devo spingere qua, parlate una bella bestiolina. Anche se secondo me si è leggermente troppo alto tu in questo momento, dovresti abbassare un po' la radio, comunque va bene, dai. Troppo alto la radio? Ah, come da te? Ma perché lui rimane lontananza, rimbomba un po'. Tutto lì, però già va bene. Quanto mi sto arrivando, vabbè, di segnali io, molto, molto alto. Tu c'hai 5 punti meno di lui, dai, ma anche tu sai, se c'è stato un segnale fortissimi, cioè, raramente vedi. 9.20 per Claudio attenuato, 9.10 per Franco attenuato, di 20 dB. Buonasera. Sorry, no, spero che non mi stai ascoltando Saturo, se va bene così, sto andando con tutta la potenza della radio, 100 watt, perché beh lui è più alto di me, Roberto siamo lì, lo so perché anche quando era carbonati rispetto all'altro aveva sempre qualche punto esempio. Ok, avanti Franco, fai girare per Roberto e poi passa a me. Eglia, aspetta che spengo il modem. Adesso c'è lo stesso segnale comunque, non so se tu hai sollevato qua. Io sto andando a 100 watt adesso, ma quella sua è spinta, quella sua è in AM ero anche 150 watt modulati, Io sto andando adesso con 440, e sono la potenza massima che mi dà appunto in AM, cosa che in banda invece me ne dà quasi 200. Ma in AM non l'ho voluto attivare rispetto ad altre che ho avuto perché la uso molto molto con amplificatore, quindi non voglio distruggermi la valvola. E questo è il 440, rispetto al 140 stavo usando poc'anzi, cosa noti di differenza? questo, leggermente più... Aspetta, vabbè, forse ripresiono, aspetta, provo, se puoi fare fretta a cambiare, ti dico, anche a livello, come chiama, strumentale, prova un po', fai la prova con uno e poi con l'altro, ma c'è anche il microfono uguale? Sì, sì, io ho 6 MC60, però è 2 SM20. Allora, cambio, non posso tenere così, commuto, e le faccio il passaggio, questo è il 440, questo è il 440. Manualizzato il livello della modulazione e l'equalizzazione, diciamo, quante tonalità c'ha, diciamo, le frequenze, cosa ti manca, cosa c'è. Ok, questo qua invece è il 140. Ma il 140 è un peluzzino più basso come modulazione. Riprova a parlare un attimino, cioè parliamo di livello di modulazione, ma è una cosa a livello strumentale, a voi che non te ne accorgi, riprova un po' a parlare. Guarda, vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guarda, di radio sono quasi simili, diciamo differenze, non è vero, forse per appena meno di acuti, ma quasi che sia solo un'impressione mia, Mari, per come ti sei spostato, ma sembra per appena più basso, proprio un peluzzino di lato, forse l'ha levato diversamente, non so, vabbè, sono due apparati diversi, non li puoi giudicare, perché questo è un pochettino per appena più basso di radio. Io posso anche aumentare ancora la radio, non è che io ce l'ho, sono passato al 440, io ce l'ho, diciamo, tra l'1 e il 2, proprio al minimo perché poi in banda laterale sono troppo forte, altrimenti è troppo forte, ok, la testa a me va bene? È il migliore, tra questo c'è anche più basso, oltre che, diciamo, forse c'è meno distorsione al 440 rispetto all'altro, sono tutti all'ultimo, niente da dire, però questo mi piace di più, quest'ultima radio 440 la dirò un punto in più di valutazione. Adesso ti posso rispondere, tra attacca lo scaldotto per i piedi che sono influenzato, non c'ho piedi freddi. Allora, col 440 te noto, farò risolvere la modulazione, qua orecchio è sempre uguale, tutte e due ultime nuova. Se no si è passato 9,20, con 4,40 si è 9,20, chiuso le fighe e tutto. Invece col 140 c'è lo stesso segnale di Franco, 9,10. Quindi il segno di vento che fa è da 9,4. Sì, infatti, col 140 era un po' meno potente rispetto a questo, perché non mi fido andare oltre. Con questo invece si può cantare, diciamo, dai finali più grossi, quindi in AM il picco di modulazione è molto più alto, molto più forte. E siamo anche oltre il 100, figurati. Fischiati siamo anche oltre il 100. Ok, Franco, riprendi, carissimo. Guarda a me, sai voi, quanto mi sta arrivando io? Atenuato 9,10, atenuato 20 dB, se apro tutto le referine, fa passaggio? Sì, sulla D, sì, sulla D, e invece Claudio va a finire sulla B, K. Che ti va pistolando tu, K? Io sono con 440, 105. 110 fischiati sui 100, 95, 100...